credo sia una storia importante, significativa. Ho l'impressione che bolognesi e non la conoscono, ma credo che ci siano alcuni dettagli su cui ragionare che non sono invece così noti e conosciuti. In particolare penso a quello che il libro Il Massacro di Baldissarra e Pezzino, uscito 10 anni fa, ha messo in luce, ovvero il fatto che quella è stata un'operazione militare. Perché sottolineo questo? Perché molto spesso si è detto, ancora si dice, che quelli che hanno compiuto quelle azioni, quei crimini efferati, quel massacro, non fossero degli esseri umani. Ecco, io ho sempre pensato che bisognasse raccontare questa storia partendo dal presupposto che quelle persone erano esseri umani, perché solo così questa storia può aiutarci a capire cosa noi come esseri umani possiamo fare e cosa noi esseri umani dobbiamo stare attenti a non fare. Questo penso che sia il motivo principale per cui ho voluto raccontare questa storia, perché il singolo, chiunque di noi è capace di fare delle cose brutte, e quando invece ci mettiamo in comunità, ci mettiamo in associazione, ci mettiamo in un gruppo, in un partito, ci raccogliamo attorno a un ideale che ha dei presupposti appunto violenti, aggressivi, ecco, siamo capaci di fare dei danni enormi, come è stata la Seconda Guerra Mondiale. Non dimentichiamolo, perché la strage di Montesole si inserisce nella Seconda Guerra Mondiale ed è figlia di qualcosa che è nato 20 anni prima, ed è questo il percorso che cerco di raccontare. Nel trailer mi ha colpito molto la frase, appunto, di un testimone che ha evocato una parola che è molto attuale, che è quella di odio, e dice sostanzialmente: questo è il risultato, cioè la strage appunto di Montesole è il risultato dello spargere odio. È un discorso, come dire, che risuona molto nel presente. Oggi si parla dell'odio sparso, no? Purtroppo di odio se ne parla da sempre, probabilmente, e appunto bisogna imparare a riconoscere l'odio che è nel nostro tempo. Questo è il lavoro che cercate di fare, partendo anche da quella frase che dice Ferruccio Latti, uno dei superstiti della strage, è stato quello di costruire come quell'odio, quello in particolare, è nato ed è cresciuto e si è sviluppato fino ad arrivare a compiere quello. Oggi abbiamo altre forme di odio che ci accompagnano, in passato ve ne sono state altre da parte anche di altre potenze che magari nella Seconda Guerra ci hanno liberato, ma insomma, appunto, penso che ognuno debba vedere l'odio del proprio tempo. E questo penso che possa essere, può apparire un discorso anche soggettivo, in verità non penso che sia così, perché io sono convinto che in cuore, in ciascuno di noi, ci sia la consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Se uno si potesse fermare un attimo a pensare, ad ascoltare il proprio corpo, che cosa gli dice rispetto a certe faccende, io penso che il corpo direbbe tranquillamente a ciascuno di noi che cosa è buono e che cosa è cattivo, dov'è l'odio, dove invece non c'è odio ma c'è pace. Nel tuo lavoro vengono utilizzati diversi linguaggi, oltre alle testimonianze appunto di superstiti ma anche di storici. Ho visto anche Elena Monicelli della Scuola di Pace di Montesole. Ci sono anche animazioni e una colonna sonora fatta dai Quinto Rigo. Sì, l'idea era quella di raccontare questa storia nella maniera più semplice possibile, quindi sono tante piccole cose, tanti piccoli contributi, diciamo, artistici, in cui ognuno assume un significato. Come dici tu, ci sono vari linguaggi, non dimentichiamo anche quello del repertorio, che è fondamentale, perché il repertorio, sai, è l'immagine, diciamo così, più vera che tu possa avere dell'epoca. Devo dire che abbiamo fatto un grandissimo lavoro di ricerca del materiale di repertorio, perché il filo conduttore del documentario è il concetto di bambino, che il bambino che durante il fascismo e il nazismo viene educato a credere, obbedire, combattere, ad essere soldato, no? Infatti abbiamo trovato delle immagini che per me sono pazzesche, dove tu vedi dei bambini tedeschi degli anni 30 che giocano in un campo, come ci abbiamo oggi i giochi con l'altalena e le varie altre strutture, ecco, lì giocano sopra dei carri armati. Oppure abbiamo le immagini dei giovani, giovanissimi balilla fascisti che indossano delle maschere da gas, fanno delle esercitazioni in mezzo ai campi, si divertono, sparano e fanno, giocano alla guerra, però vestiti, cioè non è come il bambino col tappo di sughero, no? Ecco. Quindi anche il repertorio è fondamentale, secondo me. Le animazioni di Giulia Conoscenti, straordinarie, ha fatto un lavoro, secondo me, bellissimo, lei è bravissima, insomma. Le ho volute io quelle perché mi sono detto che ovviamente non c'è materiale, diciamo, di repertorio della strage, ovviamente, non ci sono le scene di ammattamento, eccetera. E non volevo neanche andare a ricostruirle, perché non essendo un film di fiction potevo non farlo. Allora ho pensato di utilizzare queste animazioni in maniera che fossero più evocative che narrative, perché io di fatto, come regista, io, ma che ne so, la faccia che aveva quel tedesco mentre sparava o quella vittima mentre aspettava la fucilazione, per cui non mi sentivo di fare una ricostruzione di fiction con attori. Allora ho pensato di utilizzare quello stratagemma, appunto, delle animazioni. Ho parlato con Gianluigi Toccafondo, che è il maestro, che mi ha dato appunto il contatto di Giulia Conoscenti, che ringrazio tantissimo perché veramente ha fatto un lavoro straordinario. Ci tengo a sottolineare che, oltre alla colonna sonora di Quinto Rigo, come sempre attenti e preziosi a supportare il racconto, secondo me un grandissimo lavoro è stato fatto anche da Diego Schiavo, che ha fatto il mix audio e il sound design, che anche quello fa parte del discorso prima, cioè un lavoro semplice, piccolo, ma estremamente funzionale al racconto. Penso che, insomma, chi vedrà il film se ne potrà accorgere che c'è anche un'idea di suoni che cambiano e di utilizzo delle musiche e dell'ambiente. Oltre alla proiezione, verrà presentato il film anche a Marzabotto e sui canali Rai. Sì, la messa in onda in Rai sarà il 29 settembre, cioè proprio la domenica sera, su speciale TG1, e a Marzabotto la proiezione, diciamo così, aperta al pubblico ancora non è stata definita. Ci sarà una proiezione per le scuole il 7 ottobre, diciamo che per metà ottobre verrà organizzata anche a Marzabotto. Devo dire con piacere che ci sono già associazioni, parrocchie e centri civici locali che mi hanno già contattato per farne altre, quindi, insomma, soprattutto, se posso così mestamente fare un appello, è quello agli insegnanti delle scuole superiori, perché io questo documentario l'ho fatto principalmente pensando agli adolescenti. Devo dire che in questa primavera ho fatto dei test nelle scuole superiori con diverse classi, è stato molto bello, molto commovente, e devo dire che ha funzionato. Addirittura dopo la proiezione ci sono stati con gli alunni dei dibattiti lunghissimi, cioè un'ora, a volte anche due ore. Una volta è suonata la campanella di fine scuola all'1:15, hanno chiesto di poter restare lì e continuare a parlare, per cui, insomma, per me è stato molto commovente e molto emozionante, perché, insomma, ho visto che questo lavoro ha un senso e può averlo, quindi sì, spero che si diffonda il più possibile, proprio perché penso che sia importante non solo conoscere la storia, ma appunto riflettere, come dice Elena Monicelli, c'è anche nel trailer, esplorare la distanza, esplorare lo spazio che separa la parola bambino dalla parola aiutante del bandito, perché dopo la strage, il 2 ottobre, i tedeschi producono un report sulla strage, appunto, e dicono che hanno ammazzato 220 aiutanti dei banditi. Ecco, quei 220 aiutanti dei banditi sono i bambini. Allora Elena Monicelli della scuola di pace di Montessori, molto intelligentemente e acutamente, dice: ecco, lo spazio che separa la parola bambino aiutante dei banditi è lo spazio in cui possiamo noi lavorare per costruirci una memoria e riflettere su quello che è accaduto.